Ma la polizia, al posto di portar via i bambini con la forza, non potrebbe portar via qualcun altro molto più grosso in Lombardia? La giunta è azzerata. Procederò nei prossimi giorni a dar vita ad una giunta nuova. Ricominciamo!